poi sono 20 watt. Questa è la sua preferita. Poi sono a 80 watt, 50 watt. Qui sono a 100 watt modulati, guarda, 100 watt modulati. Sui segnali hai ambasciato. Chiaro, passo a passo. Io. Cato Marco, tu, cato capo, Marco di bassa, allucinante. E vado all'unione attaccato però. E siete più vicini, è chiaro. No, se fate queste prove non sono prove. Bisogna fare a distanza, non attaccate all'altro. La Montecitoria, quando fate i giochetti, Massimiliano Franco e Giulio Rollaro, prova a farli fuori da Sassari, vedi cosa biglietti. Ricordati che le prove si fanno fuori, non con quelli dentro Sassari vicino, ricordatevelo. E lasciare lì, Anto, no, non mi facciano diventare come ero 30 anni fa, sennò non mi vediamo alcuna Sassari, né Sassari né dintorni. Che siamo così incazzati subito. Che fate prove del cazzo, capito? Quando fate prove del cazzo, è chiaro che se sei vicino passi tu, che discorsi sono? Ma la cazzo di ce l'hai sempre. Marco, quanto hai usato? Lafayette Ares, un baracchino della mutua e RM, RM Italica, 70 watt solo. Va bene, io vi saluto, vado a portare il cane, era gente che mi chiamava, ma me ne siete dimenticati. Vero già, ci sono tutti dimenticati. Quanti watt di acqua lineare, Marco? 70 watt. Allora, diciamo, se gliene dai 7... sporchi naturalmente, se viene dai 3 ne da 80, però io ho il filtro anti TVI quello buono e si mangia 10 watt, quindi una settantina di watt reali. 70 watt, sono buoni, sono più 40 qua. Quanto ti arriva a te Massimiliano? 9,20. Quanto ti arrivo io adesso, così, con 50 watt? Gappa gappa. E c'è un'antenna Energy ed è al centro. Non c'entra nulla, non c'entra nulla. L'apertura è quella che conta, la vicinanza, la venuta va. Possiamo stare 50 giorni parlando sempre la stessa cosa. Cappa, allora, facciamo riprendere, guarda c'è un brofetto, allora un brofetto. Cattissimo, sempre lo vende. Oi, oi, sei di una comica, grande, grande, poi alla fine salta fuori lo spirito del ragazzo cielo. Capito, alla fine siamo due pezzi. E vabbè, stiamo giocando così, io non ne uso mai di questa roba, è giusto per farlo lavorare, se no si inchioda, lascialo fermo. Mi pare è rientrato Roberto, no, c'era qualcuno, stava sovramodulando, provando, fischiando quando parlavo a coso, fare un brofetta, non so se era Antonello, Antonello tu sì. Ero io che stavo accordando nel canale 9, scusa. Ah, come non detto. Ok, va bene, vediamo, c'è la telecardina nel parcheggio, va la telecardina. Guarda che si inchioda da te, Roberto. Oltre il solito America è tra, c'è sempre a fondo scala, più di fondo scala arriva tra parete, cosa ti posso dire, c'è sempre a 960 oltre. E lì da te Massimiliano? Quasi 9.30. Quasi 9.30. Come si chiama? Marco? Claudio, qua a Smitter non ce n'è, l'hai vista la foto del baracchinetto? Sì, l'ho visto, l'ho visto. Luca, ci sei? Ecco, e dove andare? È 9.30. Ho capito, adesso io sono alla stessa parità di matti di Marco. Prova a parlare Marco, se riesci a passare così, stessa parità di matti, considera che lui è molto più vicino a te. Guarda a vedere, stessa parità di matti, 80 matti, guarda a vedere. Marco, però passa di turbato. Chi? Marco proprio sale di segnale, tu sei davanti al più, lui sale sul più. Quindi a parità di potenza non passa neanche Marco, diciamo, va bene. Ma io faccio un secondo di bianco, riprendo dopo, ragazzi, a più tardi, rilancio a Eugenio che farà girare per chi vuole, va, ciao Dozzo, senti il sì. Ok, quando l'ha messo sui 100, la radio perlomeno qua, a me non mi piaceva, stava iniziando a distorcere di brutto. Stavo iniziando a distorcere di brutto, adesso va bene, ma poco fa quando la prima volta che l'hai fatto non andava benissimo, eh. Attenzione che io sto usando solo la radio, non ho nessun amplificatore. Ok, questa radio posso metterla anche a 100 watt di portante bianca e li modulo a 130, però l'ho messa a 80 per farla modulare a 100, 105 watt, ok? Quindi adesso va bene così. Sì, sì, no, adesso va bene, poi adesso è la tua modulazione, però poco fa l'hai messo a 100 e la radio non era bella chiara, stava andando in distorsione. Ecco. Ho capito, ho capito. Quanto è il segnale di da te? Sì, a 20. Stai detratto? Sì, a 20. Sei praticamente sul più, dai. Vabbè, vabbè. Registrato il back, cosa che back è registrato? Lo puoi fare entrare. Sì, c'è la ricarica, la parte di casa. Adesso sto modulando dalla terra mobile, sono salito su a provare. Sì, ho capito, più o meno il segnale è uguale. Sì, confermo Claudio, di poco fa non eri leggermente compresso, la voce era chiara però eri un po' compresso, forse è andato troppo. Sì, ero fuori disaccordo. Vediamo Franco in sorso se c'è. Franco, salito lì da te. Chi è salito? Il segnale, deve essere salito. Ma di poco però. Da 8 a 9 qualcosa. Oh scusate, io mi sto allontanando, ci sentiamo più tardi, ciao. Quante volte arrivi di 9? 8 d'arrivo, se tu mi arrivi 9 a me. Ciao, che alla dopo. Se io d'arrivo 9 e tu mi arrivi 8, ma tu mi arrivi 8 normale. E così è 9, basta. 9 e 2, no. Va bene, 9. Va bene, no, non ce n'è amplificatore, attacca amplificatore. Mezza roba, lasciate stare, anzi sì, un buon momento per me il cuffietto radio. Ecco qua, questi sono i miei watt, questi sono i miei watt, 20 watt. Quanto è sceso? A 7? A 7 è sceso, fra. Ah. Si è bruciato tutto. Sì, l'avranno chiamato sicuramente. Va bene, dai. Quindi a parte la potenza vedi che non passi neanche da Luca Marco. Aspetta che lo metto a 20, poi metterà a 30. Ecco qua, 20 watt. Ok, chi è che ha detto... Aspetta, chi è? Io. Hai abbassato adesso? Sì, sì, infatti ti ho detto quant'è adesso? 7, 8, quant'è? 8 è qualcosa, no? A picchi 8 e 5. Cazzo, tu sei 9, cazzo. Sì, quanto fra 20, 30? Chi, io? No, quasi una ventina. Cazzo 9 mi arrivi. Sai qual è il problema? Che tu, da quella zona lì, sicuramente sei aperto per me. Io sono chiuso perché c'ho... come si chiama? La montagna di Monte Bianchino lì. No, ma Monte Bianchino si chiama, di sa zona. Ah, non so come si chiama questa montagnetta. Franco, chi è che chiama Franco? Aspetta, stai parlando in due. Scusato, Franco, anche qua arrivi in 9, confermo il rapporto di Claudio. E io come ti arrivo? Io sono stesso una ventina. Tu sei 7 modulati a 9. Ah, 8 volevo dire, scusa. Ehi, a chi è che sta cercando di entrare avanti? Chi è? Quando cercano di entrare? È importante Santiago 8. Sì, sì, abbiamo lo stesso segnale, o Roberto. Magari io ti fermo qualche punto così, ma non è niente di che, capito? Però come ricezione sei uguale, 9 mi arriva Franco, ma sempre mi è arrivato fortissimo Franco. Poi c'ha un linearetto col baracchino e quando attacca lo supera a 9, lo supera. No, ne ho linearetto io, non ti preoccupare, faccio fare la radio. Claudio, guarda che sta chiamando, Gavino stava portando. Sbaglio. Cosa fra? Sta chiamando? Gavino di Porto Torres. Cazzo non arriva qua, Gavi, fra non lo sento io, salutano, non arriva qua, qualcuno lo sente? Aspetta, Gavino non ti sente Claudio, ciao Gavino, ben ascoltato. Che questo ovviamente è importante quando parla coso, Franco. Anche tu sì, che non stai uscendo. Non è segnale di sassari questo, Roberto. Se mi arriva 8 a me, dai. Ok, salutamelo Fra, non arriva qua, dai, salutamelo, un abbraccio grande. Muovi dell'antenna, Gavì, aio, fatti sentire anche tu. Oh, sono le 8:15, io vi lascio, ci sentiamo dopo, Riprendi Fra, salutami a Gavino. Ehi, l'avete tutto schiacciato poco fa, Aspetta, Gavino, ti saluta Claudio, ti saluta. Ciao Gavino. Comunque non erano stati a voto, qua erano per più dirci, non volete che sia Capri che non sta uscendo, tu sei Capri. Ciao Gavì, tanto si stanno parlando sopra. Questo è il segnale orario, mi voglio il segnale orario, sono le ore 18:50. Chi è rimasto qua? C'eri tu, Franco, quando stavi parlando tu, che tu eri 9, c'era un altro segnale che ti mandava a portate 9:10. Non so chi sia, sembrava il segnale di Muro come in intensità, però boh, non è entrato. Vediamo un po' se vuole entrare, se no riprendi tu Gianni doppio rumore. Anche io. Ah, c'è anche Riccardino, pensavo. Ti ascolto un po' pulito adesso, di radio anche il segnale. Lo vedi, così va bene Ricca, non so cosa hai toccato. Non vi dimenticate di Riccardino. Sì, sono nella parte alta, che... Ehi, va benissimo, la radio è bella pulita e chiara. Ok, magari andate andata la piazza di lì nella parte alta dall'ingresso, dai, solo ci vuole troppo capo per arrivare di lì. E magari quello che guadagni in posizione lo perdi con la perdita del capo. Ok, c'è quello del Porto Torres, Franco, io lo sento che parla però non capisco quello che dice, ma Porto Torres dove? No, probabilmente era in macchina, era e stava andando Gavino, quello di Porto Torres, modulava prima, adesso da molto che non modula. Attenzione, vai! Uè Gavì, e beh, sto bene, è già una cosa grande che siamo tutti vivi, dai! Qualche cosa di coronavirus, avanti Fra. Ehi, ma dove sei Gavì? Ah, la casa tua? Cappale. Infatti, stavo con strano che non ti ascolta Claudio. Ma chi è che mi ha portato? Ti ha attaccato a te, poi portare le cose tu. Ma, sei, primate, mi c'era più forte, grazie al mio tempo di vicino. Ma non taci tutto. Ma si è attaccato a te, ma non c'è di zene, che non arrivi manca la Landrica, che ti ha attaccato a te, parenti da giuscio, ma cosa pisci, che non lo so dove abita. Certo c'è un antennino dove vuole arrivare qua. Ma se l'ascolta Gianni. E per forza l'ascolta Gianni, sei lì nella Budi, cazzo, ma Fra, ormai 65 anni e non è ancora compresciuta il radio. Mi prende, già. Ehi, dai, lasciate da bravo. A Filippo l'ho sceso. No, mi sto preparando, mi sto preparando. Che sta attaccando a voi, boh? Pretendete che sia cattivo reca, se io ascolto quello che posso ascoltare. Se non arriva qua, ma l'abbiamo già fatta la prova l'altro giorno, lo sentivo basso basso, ma adesso c'è QRM. Non ti arrabbiare, stavo scherzando. E anch'io lo so da Buffonelli, va, cosa sto dicendo, lo so dove abita, abita lì dove abitava Benito, è lì attaccata a te, non so sarà 3-4 km da Giusciu. E poi Gianni è più vicino a Gianni, chiaramente lo ascolta per quello, ma anch'io lo ascolto se non c'è QRM. Cappa, dai. Va bene, riprendi Roberto. Ehi, sentivo, quando parlavi tu, Franco, qualcuno che parla a metà portante, non so se non stava uscendo, 9:10, segnale, e ti copriva. Se aveva il segnale di Muros, pensavo che fossero loro che magari non uscivano di radio, però ho chiamato e non risponde, ok, non c'è qualcuno che sta facendo delle prove. Ok, mentre l'amico Gabino, non so se lui mi ascolta, io lo sentivo Santiago 5, però la radio è incomprensibile, era in mezzo al QRM. Gianni probabilmente è molto più favorevole perché più vicino ce l'ha di fronte, io per certe zone sono un po' scoperto. Vabbè, come fai a sentire lo Santiago 5 tu a Gavino? Fammi capire, 9:10 la portante, se ti ho detto che era Santiago 8, ma cosa vai, l'amplificatore è attaccato? Ho capito, di chi stai parlando? Da Gavino ho detto che io non lo sento in mezzo al QRM 5, si sente che parla ma non capisco quello che dice. C'è una portante a 9:10, quando parlava a coso, Franco, lo copriva, Franco arriva a 9. E allora è attaccato a casa tua, perché Franco qua non lo copre nessuno. La portante era Santiago 8, ti ho detto, e Franco è Santiago 9, quasi più 5. Non lo so, a me arriva a 9:10, poi se è attaccato a me o se è da qualche altra parte non lo so. Boh, ci sono queste variazioni di segnale tra me e te, allucinanti. Boh, non capisco, vabbè, non sta io sono più alto di te. No, no, c'era la portante poco fa, Santiago 8, ma Franco è più alto, 9,5. Io lo sentivo 9,10, Franco è 9 spaccato qua. Probabilmente è attaccato a me o qualcuno che sta facendo proprio con qualche portatilino, perché non è segnale di antenna, cioè se uno è vicino a me, diciamo più vicino a me, più lontano da te, cazzo, deve arrivare a 9,40, come arriva Coso, Marco Condoro, 9,50 come arriva l'altro, come ti si chiama, Giovanni. Probabilmente qualcuno attaccato a me col portatilino, non lo so, perché se tu lo senti alto sarà così, Guarda, a me Marco mi arriva 9,30, che è il segnale più alto di tutti, sia di quelli del Latte Dolce, sia di quelli di Sassari, tutti, compreso, togliendo a te e Antonello. E Antonello Alessio, e quello attaccato mi arriva 9,40, che è ancora un segnale, ti ripeto, che sento la sua voce, il disturbo lo sento sotto di te, perché c'è un microfono normale, se avessi avuto un amplificato ti dà mattana, perché tu sei 60, quindi ti può dare fastidio, capito? Non arrivi a fondo scala tu a me a fondo scala, non mi arrivi sul DB, sì, all'inizio del sì, capito? Poi c'è lo 0 e poi c'è il DB, capito? Quindi provarsi ti dia fastidio, ma questa portante era Santiago 8, quindi sicuramente qualcuno vicino a te. Va bene, tanto mi dispiace, non sento Gavino, se lui mi sente comunque ti saluto Gavino, un abbraccio. Se hai bisogno di una mano per piazzare antenna, per qualcosa, chiamami, contattami, già sono a casa. Anche qua è 0 e non arriva proprio. Questa è la portante, Roberto. No, questo mi arriva a 9,30, normale, 9,40 attaccato, Marco, e arriva a bomba. Era un segnale di 9,10 fisso e dava tum tum tum tum col vettino. Duro, beh, quando parli non sei attento, o sei troppo distratto. Io parlo guardando la radio, non guardando le farfalle. C'era, quando ha parlato Marco, c'era una portante a Santiago 8, ti ho chiesto, quella è la portante. No, io non l'ho sentito assolutamente, io l'ho sentito la portante che copriva a Franco, non a Marco. Marco arriva fortissimo, capito? Non lo copre nessuno a parte te e Pompugno. Sto parlando, quando stava parlando, io ho il display davanti, mi guardo lo smith davanti, e i segnali più o meno me li ricordo. Era un segnale di 9,10, quando parlava Franco mandava la portante sopra Franco. E a Marco non è Marco lo godo di Gocca, arriva 9,30 normale, 9,40 attaccato. E io ti ho risposto che di quelli fuori zona, ok, fuori zona, fuori Sassari, a Franco non lo copre nessuno, perché il segnale più alto che ricevo, quasi 9,5, perché Eugenio arriva 8,5, quasi 9, gli altri, quelli di Alghero, Angelino mi arriva, vabbè, 9,5 lo stesso, ma della zona verso giù, insomma, tra Porto Torres e Sorso, a Franco non lo copre nessuno, perché il segnale più alto che ho, quindi volevo capire come mai da te lo coprivano, quindi è qualcuno che è più vicino a te che a me, capito? Vabbè, dai, vado a portare il cane, doppio rumo, riprende e fai girare. E io riprendo e vado, dai, vado anch'io a portare il cane, dai, poi magari ci sentiamo più tardi. Che poi devo mangiare, sto malato, e sono tutti cordialmente, dai, vado via anch'io. Aspetta, devo fare un interrogativo a Franco, fra. Ehi, dimmi. Ma tu non ce l'hai l'80? Secondo te che la sto usando? Anch'io sto usando l'MC80 col 4,40 però. Col 4,40. Spinge bene. Dietro è regolato, a quanto ce l'hai dietro? Ah, il microfono stai dicendo. Ehi. Oh, c'ho 60! Ah, ecco, no, perché non... Volevo appunto fare una prova. Questo è l'MC80 quello che sto usando io. Noti differenza dal 60? Beh, la modulazione tua c'è poco da notare, perché mi sembrano tutti uguali. È bella, forte. Perché sembra che spinga un po' di più, Perché se ce l'avevi anche tu, per avere, siccome tu c'hai una timbrica molto grossa, per avere più tonalità alta, usavi l'80 e lo aprivi appena appena dietro, c'è un trimerino, no, proprio per il preamplificatore. Lo sollevavi appena e uscivi una bomba con quella radio. Va bene, dai, ci sentiamo dopo ragazzi, se ci siete. Buon proseguo a tutti, vai fra. Ciao, ciao Claudio, vai, buon proseguo, buon tutto, ci sentiamo. Avanti, Roberto. Eia, eia Anto, dimmi. L'ho visto, non verrà più smitter, dai, va bene, ed è Latte Dolce. E vabbè, Anto, sono prove che si fanno così lontano, io le prove le ho sempre fatte in lontananza, sempre in lontananza. Se considerate che arrivo in diretta anche a Oristano, proprio fatte da poco le prove, con un radio. trasformatore che trasmette anche in 27 in AM, non in FM, in AM. Quindi è le zone, chiaramente Franco c'è una bellissima zona, molto alta, molto aperta, c'è apertura per i punti, per Porto Torres, per un sacco di zone di quella zona lì, per il mare, io sono coperto. E bisogna farle in lontananza le prove, quando le fai in vicinanza non serve a niente. Vabbè, fatemi andare, sennò il cane mi piscia le scarpe nuove, ciao. Sì, ciao, ci sentiamo. Avanti, chi c'era qua? Ho sentito l'altro che ha detto va bene, chi è che ha parlato? Vero. Boh, vai Riccardi che devi far chiedere, vai. Ok, va bene, dai. Riccardo, vai Luca. Chi c'è rimasto? Chi c'è rimasto? Franco di Sosa, non mi sente, boh. E come non ti sento a te? Ah, sono da ieri che sto chiamando, non mi rispondi, boh. No, mi stai chiamando, se no non ti avrei risposto. Ah, già arrivo, allora, sono a casa però, non sono da mamma, sono, sono dalla 25. Ti avrei solo accorto, che eri più alto. K. Pare così, ma pizzicudi, cioè, si fa sentire il Franco da Sorso, Ma non solo qua, anche di là, cavolo. Là giù mi arriva a fondo scala, in PMR, là. Ma tu non sei di San Franco, sì? No, non so dove abita Franco, non abita proprio a Sorso, quasi all'inizio di Senno li abita. Sono una zona micidiale, praticamente lui è a Sorso, dentro Sorso, lui è sopra Sorso e Sorso è sotto. E già l'ho vista l'antenna, dai. Già l'ho vista che sono passato per fare dei lavori lì a, tra Sorso e Senduri. Bella zona, dai, ciao ragazzo. Ehi, ciao qua, sei sempre in roba, che lugare ti pisciare bene, dimmi qua. Tu, perché hai una piccola lugare, non è tu a te? No, che mi stavo mettendo giù un botto. Ehi, aspetta, ricarimi. Ma tu dove sei, vicino al Borgo degli Ulivi, Franco? No, tutta un'altra parte. Ah, ok. Ma tu, parliamo solo su città o periferia? Dove sei, non l'ho compreso. Periferia. Ok, ok. Vabbè, d'accordo, un altro momento, se riusciamo a capire dove sei, da così. No, mi ha chiamato Riccardo, cosa volevi Riccardo? Praticamente, tu abiti sopra mio fratello, abiti. Allora, tuo fratello da una... Un attimo, Riccardo che parla. Da tuo fratello a me sono due vie. Lo so, ho visto l'antenna, lo so. Ci ha dato un paio di volte la mia cognata, là. Ecco, ma siamo proprio vicini. Ma vicino al mercato, sì. Mercato? Vedo, scusa, ma dove c'è il coso delle ambulanze? Cosa c'è? Qualcosa di lì in alto? No, io sono fuori, quasi non fuori di Sorso. Sono dentro Sorso, ma nella periferia, per uscire a Senori. Ma da Senori ero, lui è in alto, capito? Ehi, allora, più o meno ho capito la zona, dai. Ok, stavo dicendo, scusa, Riccardino, ho capito. Boh, ci sei ancora Riccardo? Stava parlando, poi si è interrotto. Ok, chi è rimasto? Luca, Franco, io e poi chi c'è? C'è qualcun altro? Forse Antonio, tu d'accordo ci sei ancora? Io, due punti, anche perché sono da solo qua. Ciao Franco. Ciao Giulio. Giulio ti arriva a bomba sicuramente. Quando ti arriva Giulio? Franco, diglielo che li schiaccio tutti. Giulio arriva 9.05, arrivo. Anche se prima mi arrivava sempre 9.10. Quando sposto l'antenna diglielo fa, che li schiaccio e li sotterro. E vabbè, dai. E poi qualcosa su quanto ti arriva fra, per dire Eugenio. Eugenio a me mi arriva intorno ai 9.95. E chi c'è? Più forte forse coso? Tino forse arriva più forte. Tino qua arriva 9.20, 9.30 a volte, quando attacca 9.40. Infatti lui probabilmente è quello che arriva più forte di tutti, è più vicino, c'era di fronte. Tino arriva forte qua. E coso c'era anche Benito, probabilmente ti arrivava lui anche forte. Sì, Benito quando era qua a me mi arrivava 9.30. Ok. Va bene, dai, ciao Giulio, ben sentito, dai, io mi allontano un pochettino, vai, ci sentiamo dopo, dai, ciao Franco, ciao Giulio, ciao Luca, ciao Antonio se c'è, ciao Riccardino e poi tutti gli eventuali amici in ascolto, dai, se coincide ci sentiamo più tardi. Ok, riprendo io, ciao Aldobe, per la cronaca, allora, Franco, adesso ne supera tantissimi qui da me. Poi il più forte in assoluto qui è sempre Tino, quando attacca soprattutto 9 più 25, la grande. Va bene, dai, va bene, interessante ascoltarsi pure, grazie Naffuti, di 9.30 o Santiago Zincu, interessante sentirsi. E beh, fra, tutto bene, oggi niente, niente contagio a Sassa, meno male. E ora, non esserci niente, tutto a posto qua, dove mi va, ancora siamo in casa, forse domani se ci riescono ci danno le chiavi. Sarebbe ora, caspitina, porca miseria, io devo fare due cose importanti. Uno è quello di andare a rinnovarmi l'assicurazione della macchina, e l'altro è quello di rinnovarmi anche la patente, oltretutto, e non so come pure riuscire, né per una cosa né per l'altra. Vabbè, dai, c'è tempo. Avanti, chi c'è? Luca? Via, sono qua, io devo andare, non fammi il coso del medico invece. Non so se lo fanno, Ma per il medico tu di telefono ti fa la bolletta, la ricetta, e te la spedisce direttamente a casa con via online, no? E poi tu la stampi, ce l'avrai la stampante, suppongo, e puoi andare in farmacia a ritirare. Oppure c'è un'altra soluzione, tu dici in quale farmacia devi andare a prendere la medicina e lui fa la bolletta, e torna la bolletta, porca miseria, cosa c'entra la bolletta? La ricetta direttamente alla farmacia. Sì, ho capito Giulio, allora il discorso è che devo rinnovarmi il foglio dell'esenzione. Quando devi andare via a tempio, allora, dici che devo andare via a tempio, quello è diverso. E vai presto perché sempre c'è tanta gente, quando si prendono i numeri tante volte, siccome c'è tanta gente, alle 10 già chiudono la macchinetta dei numeri e tu sei buttito. Sicché vai presto, perché se no magari rischi di andare lì e non riuscire a fare l'operazione perché hanno chiuso i numerini. Va bene, dai, facciamo girare. Chi c'è poi altro? Vediamo un po' chi c'è, chi mi viene in mente. Roberto ha chiuso. Gianni ci sei? Gianni è andato a portare il cane, va bene, prendi tu fra. Ecco. Sì, è vero, giù, perché la mia moglie gli ha chiesto che farmacia era, gli ha mandato lì la ricetta. Sì, ormai si fa così, non c'è più bisogno di andare dal medico, aspettare lì, fare la fila per avere la ricetta. Se la richiedi tramite il telefono e lui gli dai tutti gli estremi e te la manda tramite il computer. E noi facciamo così, la stampiamo, o meglio la mia figlia, non io, perché io non le so usare, non le so usare il computer, solo piccole cose. Però facciamo così già da un po' di tempo. Anche per evitare di andare lì con l'accusa del coronavirus, è meglio starsene tranquilli. Va bene, dai, Luca, riprendi. Sì, e adesso mi devo informare se si può andare, non lo so, non credo, per quanto riguarda questo cavolo di Covid-19. Ciao Luca. E a fra. Perché l'esenzione la dovremmo fare tu? L'esenzione, allora. Certo, sono disoccupato e ho il diritto, no? Sì, va bene, però io anche quando stavo lavorando ce l'avevo e non mi scadeva mai. Questo qua ogni anno si fa, fra. Guarda, non lo so quello allora, pensavo che una volta fatta ce l'avevi per sempre. Sì, magari, in base al reddito, no? In base al reddito, se tu prima sta lavorando, tante cose le paga. Siccome io sono disoccupato e diciamo l'80% non pago niente, di visita intendo. Sì, ho capito. Capito, no, pensavo che una volta fatta l'esenzione, al limite quando entravi a lavorare assicurato, allora te la annullavano. Ma se non ne parlo di questo. A me l'esenzione ormai ce l'ho per il fatto dell'età, perché prima no, prima non la via, invece a mia moglie, ragazzi, non gliel'hanno fatta l'esenzione, ma te lo immagini, per il reddito, perché dice che abbiamo un reddito troppo alto e allora niente esenzione. A me invece me la danno per il fatto dell'età, perché ho superato il 75, per cui in un certo senso sono agevolato. Vabbè, comunque, andavano a tessi. Vai, Fra. Scusa Fra, allora Giulio, io sono disoccupato, risulto disoccupato comunque alla fine. Io ho fatto, ho richiesto una visita, c'è dei prelievi del sangue completi e ho pagato 30 euro, anche se sono disoccupato, 30 euro. Sì, lo so, Luca, beh certo, sei disoccupato, hai diritto all'esenzione. Ripeto, tu lo presenti, adesso, caspita, non sarà la stessa cosa, lo sarà in famiglia mia. Mia moglie non è esentata, io sì, io sto però per la questione dell'età, perché ormai ho superato il 75, per cui l'esenzione ce l'ho, mentre invece mia moglie non ce l'ha, perché non è arrivata nemmeno a 70, sì che vedi bene che a questo punto dice no, troppo reso, troppo alto, per cui niente esenzione. Quando anche lì raggiungerà l'età che deve raggiungere, allora l'esenzione ce l'avrà anche lì. Ecco come la questione, Luca. Vai Franco. Ma a me a 65 anni, quando avevo compiuto 65 anni, mi hanno fatto l'automatico il medico, l'esenzione totale. Ma mi hanno detto che a 65 anni mi dicevano che io devo fare l'esenzione. Hanno fatto l'esenzione totale di tutto. Sì, ho capito, almeno purtroppo dipende dal reddito, lo sai, l'esenzione se la fanno secondo il reddito che c'è in una famiglia, ecco qual è il discorso. Per avere l'esenzione mia moglie, il reddito che abbiamo è troppo alto, ecco com'è. Io invece ne ho diritto proprio per effetto dell'età e basta, tutto lì. Capo, sì. Sì, no, io ce l'avevo già prima, e ne avevo parecchie, ne avevo, perché sono imperfetto, e ne avevo anche parecchie di esenzione. Poi sono andato in pensione, quando ho compiuto 65 anni, mi hanno fatto quella totale proprio, che di notte non pago niente. Sì, in effetti funziona così, certo. Lo so, vabbè, comunque, è cosa mi vuoi fare, ui, vabbè, dai. Avanti Luca. Ma chi è rimasto a parte noi due? Chi c'è? Antonio, Bobo, ci sei? Marco Condor, chi è rimasto? Massimiliano? Tutti a mangiare. No, era un attimo qua, mia mamma. Se mi vedi mamma mi mangia qualcosa a voi. Ma se no, mi tiro a busci. Per carità. Che voleva entrare? Avanti il cubo. Ehi, sono sdraiato. Sono stanco che io sono dal pomeriggio in radio, figurati. Ma che ti stanca stare in radio? A parlare sì, poi stavo cercando roba, stavo disperatamente cercando questo strumento che comunque non c'è. Vebbo ora va, non c'è. Mi stanca a parlare, non sono abituato a parlare troppo. Poi vabbè, oggi siamo divertiti tra provando vaste cose. Ma facciamo quel baracchinetto che mi hai mandato la foto? Sì, questa è quella cacca di Ares, Lafayette Ares, che però funziona, anzi funziona meglio di quanto ricordassi, incredibile. Vai Giulio. Ok Marco. Beh Marco, hai visto che ti ho mandato quello ad all'incrociati, non hai visto la fotografia? Quello ti piace? Sì, esatto. E poi prima c'era il 901, adesso c'è il 901 che anziché la levetta con varie potenze ha i pulsanti. Sono dei pulsanti anziché le vette per selezionare la potenza. Sì, quello è il top. Poi per la vista mia che non è più buona è il massimo, perché è enorme lo strumento, enorme. Anche incrociati, qui non devi stare a regola del fondo scala. Addirittura ti misura la potenza AVG e anche la potenza P, con possibilità di bloccare lo strumento sul picco massimo. C'è una regolazione per farti, già capito, per bloccare il picco massimo, in modo da fare una foto, che so, per i forum, no? Sì, sì, ho capito, guarda, beh, certo, quello da un quadro grande, sì, e quello indubbiamente è ultimo, ma costa intorno ai 120-130, non so più o meno quello. Mi Franco ci sa dire qualcosa. Franco, quanto costa l'801 in dollari? Anzi, traducili in euro, vai. Te lo dico io. E chi ne capisce quello? Sì, ma e quanto costa il rosmetro, quello a cose incrociate, a misure incrociate, come quanto costa? Allora, io ho preso il CM102, ho preso, l'ho pagato dalla Raiva, l'ho pagato 110 euro. Sentito Marco, 110 euro, già l'hai sentito Franco, vai. Eia, 102, così è. Sì, quello un po' di più, un po' di più. Con la spedizione poi alla fine arriviamo a 150 euro quasi, e qua a Sassari non ce l'hanno. Guarda, quello che fa i prezzi migliori è sempre Media Globe. Io Marco, quando l'ho preso da, adesso non mi ricordo, dov'è, però c'è uno scontrino da qualche parte dentro la scatola, perché c'è una scatola ancora, e perché ne ho preso due, ne ho preso uno per la KF e uno per la VU, ne ho preso, sono uguali identici, sono. E ho pagato tutti e due 120 euro, spedizione gratuita. Il modello, hai detto, il modello almeno di quello HF? Allora, questo, l'HF è il CN102L. CN102L, adesso me lo guardo, dai. È un bello strumento, Marco, sì, un bello strumento. Da 1,8 a 200 fa, e dunque va bene anche per l'HF, oltre che da per la CB, va benissimo, bello strumento. Bene, bene, bene, vai Luca. Sono rientrato, Ok, ciao qua, e beh, portato vai a Filippo. Allora, tutti i voti mi ha pisciato. Beh, dai, Gitavia, allora manco impari, questa volta lo porti prima, lo porti, questo povero animale, ma non lo so, io. Io. Riprendi. Allora, stavamo giocando con Franco, non ho visto manco l'ora. Oh, Marco, c'è quello, no, non mi sono accorto, quello della Reves che c'ho io, fa da 1,6 a 1300 MHz. Bello quello, bello. Poi c'è l'altro, con la tag incrociati della ZG, che adesso non mi ricordo, ce l'ho dentro l'armadio, però è già venduto, devono venire a prendere solo dopo che passa questo casino. Anche quello lì fa da 1,8 a 500, quindi fa tutte le HF, le V e le U. Break and break. Eia, io lo mando avanti, vai il break avanti. Sono break and power lo stesso. No, perché Paolo è morto, ti ricordo che abitava vicino a casa mia. Eia, buonasera. Ciao a te. Eia, grazie, Marco, l'ho ricevuto da Massimiliano, eh. Abitava vicino a casa tua, Ocla. Poi quando si era separato dalla moglie, era finito qua nella zona mia, e un giorno l'ho trovato al semaforo, poveraccio, ormai era diventato fuori di testa. Beckenbauer, vabbè, comunque anche lui, povero diavolo, vabbè, è molto da un me. Avanti, Tino, ciao. Forse abbiamo parlato in due, Giulio, ciao a tutti comunque. Stavo ringraziando a Marco perché ho ricevuto ora il Deplian, come lo puoi chiamare, la guida, ecco Marco, me l'ha mandata Massimiliano, grazie. Sì, Black and Mauer, chi era? Radio Galera, se non mi sbaglio. Sì, ecco quello era un biscatto, sai, si ubriacava, poi entrava, mi ricordo, in quegli anni, sì, nel canale 20, mi pare, parlavamo nel 21, a rompermi le scatole perché era attaccato qua a casa. L'ha giudito una volta giù, l'ha giuminazzato, mi ascolta. Sei una persona grande, io sono un ragazzo, non rompermi le scatole, perché se non dove ti trovo, ho detto, di un sacco, te lo butto, te lo metto al posto dei piedi, l'ho detto in Sassarese. Non mi ha più rotto le scatole. Vabbè. Bene, faccio un attimino di bianco, sono qua in Codex, devo guardare un attimino al computer, cosa, il computer, il telefono, devo fare una telefonata di lavoro per domani, dai, già riprendo subito. E io ciao a te, dai, poi se ti serve delucidazioni già lo sai. Oh Claudio, quella 3 lo chiamava Breckenballe. Già di una sola non riuscivo mai a dire il nome. Ci siamo divertiti prima, però quello che mi frega, l'unico fattore che a me mi frega sono i 50 metri di registro 130. 50 metri, ma tu immaginati dal commutatore dell'antenna, quello della Meritron, a dove la Mantova ci sono 15 metri, solo lì, poi 40 metri che a voi discesa, fate il conto, infatti adesso appena inizio a fare lavori sul tetto, la Mantova da lì la sposto, la metto a fianco alle direttive, a fianco alle direttive. Se no mi varo la 510 e la Mantova la metto in punta al traliccio, riesci a vedere? Ehi. Ti mando la foto di quello lì, peraltro tutto impolverato, non me ne ero accorto che era impolverato. Vabbè, dai, c'è bella l'aria anche tu, tutti abbiamo quei baracchini, poi chi esce più, chi esce meno, abbiamo zone diverse, già ci difendiamo tutti. Vai Giulio, riprendi tu e fai girare, dai. Ok, riprendo io ancora per questo passaggio e dopo devo scendere per la cena. Marco, guarda che ti ho girato lo strumento, appunto, che ti abbiamo detto, o meglio che ti ha detto l'amico lì, se lo guardi bene, guarda WhatsApp. Va bene, dai, signori belli, io sono già le 8 e un quarto, le 8 e 17 per l'esattezza, e me ne scendo giù per la cena, tanto mi chiama di sicuro, perché conosco troppo le abitudini della famiglia. Ci sentiamo, vi ringrazio intanto tutti quanti per il questo, è stata una serata tranquilla e pacifica, abbiamo udito cose serie e anche gli abituri, tanto per cambiare, ma comunque va bene così. Ciao Claudio, ciao Franco, ciao Marco, ciao Luca, salutoni a tutti, ascolto il finalino e dopodiché discesa, piano terra, tabla e beta. Avanti Franco. Ciao, dai, ciao Giulio. Buona sera, buon tutto, dai, ci cioè, ascoltiamo le prossimine. Avanti Claudio. Ciao Matteo Giù, ci aggiorniamo, dai. Io non so se quello che c'è alla TV, poi un'altra oretta me la faccio, per cui domani mattina si viaggia, domani bisogna mirarti presto di nuovo, dai. Ciao, buona serata, buon tutto. Avanti Marco, per i saluti a Giulio. Ehi a Giulio, ho visto, lo conoscevo anche, però non ricordo le sigle. Ok, ciao Giulio, buona serata, buon tutto e ci sentiamo, dai. Avanti Fra. Ciao. Visto, quello lì è quello che ti ho detto. Eia. Allora, quello che piace a me, a parte che ho visto il prezzo, me ne farà un raio. Allora, da Media Globe, che ha i prezzi migliori di tutti, gli deve arrivare, gli sta arrivando però 147 euro. A questo li devi aggiungere, quello è, però è tutto strumento, non ha quella parte vuota di lato, no, è tutto strumento con due pulsanti di lato, 147 euro, li devi aggiungere almeno 10 euro di spedizione se non 12, un bel costo, un bel, e infatti vediamo cosa ne esce, prima di tutto vediamo se qua giù li di là, voi. Ecco, è registrato, guarda Marco, se prendi questi non sbagli, sono buoni, sono meglio di comprare altre cagate che ho qua, della detta G e via. Questi sono veramente meravigliosi, sono precisi. Avanti Beck. Gavino da Sassari, come ricevette? Abbastanza forte, radio Super 5, è un segnale di 9 a Franco da Sorso. Avanti Claudio. Scusate, sono rientrato. Claudio, forza, avanti! Claudio si fa sentire, avanti Tittino. Buonasera, dai, rispetto, non sono appena rientrato, quindi non so cosa è l'argomento che ho dovuto fare una passa. Stiamo parlando di Rosmetro. Ah, bene. Va bene, ne sto aspettando uno, adesso vediamo quando si sbloccano le cose e lo proviamo. Avanti Marco. Maria, io scusate, adesso mi faccio il caffè che sono aici aici, dai. E quindi vi lancio Claudio che faccia girare. A dopo, ciao. Tino, vabbè, l'ho salutato.